denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Che fanno i versacci e le mostacce. Ma sì, sulla pagina Facebook. Esatto. Perché due di denari. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno Deborah e buongiorno agli ascoltatori. E anche agli telespettatori, perché ormai dobbiamo ai Facebook rivolgerci... spettatori. Esatto, sì, esatto. Con la nostra consueta autorevole leggerezza coniamo termini nuovi ogni giorno. Stiamo facendo un nuovo vocabolario. Siamo dei neologisti. Allora, il sommario di oggi, Mauro, il tema di cui ha parlato anche 24 mattino quest'oggi con Luca Telese ed Oscar Giannino. Da che cosa partiamo sì, stamattina? Sì, partiamo da questa vicenda, di questa richiesta di una figlia 26enne che ha chiesto al padre 2.700 e passa euro mensili per il suo mantenimento. Allora cercheremo anche di delinearlo meglio, ma poi soprattutto la domanda è: ma c'è un obbligo? Quali sono gli obblighi per mantenere i figli? Esatto, abbiamo avuto bisogno della consulenza di un esperto giustamente di diritto di famiglia. Poi parleremo di un mondo piuttosto complicato nei confronti del quale è bene approcciarsi con grande cautela. Noi non lo raccomanderemo mai abbastanza, quello delle valute digitali, bitcoin, criptovalute, un mondo che per qualcuno è veramente ancora molto distante, altri invece tentano di fare delle operazioni magari con l'idea di arricchirsi facilmente. È in preparazione una guida del Sole 24 Ore, un approfondimento del Sole 24 Ore che sarà in edicola domani, curato dai colleghi di Plus 24. Noi oggi ne parleremo anticipando naturalmente questa uscita. E poi voglio dire, facciamo anche una, nell'ultima parte avremo la mia rubrica di cui vado molto orgoglioso, che è C'è imposta per te. Ma non voglio svelare l'argomento. Non lo svegliamo? No, vorrei che fosse una sorpresa. Benissimo, intanto per tutti questi argomenti, anche per il tema sorpresa, 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta, soprattutto sul primo argomento che è molto delicato, ma sicuramente che in qualche maniera così interesserà molti di voi, perché magari siete al centro di separazioni complicate, determinazione di assegni di mantenimento per i figli, e sono sempre appunto situazioni personali anche molto delicate, per cui se volete anche voi intervenire in diretta ci siamo, ma potete anche scrivere. Certo, al 349 238 6666, come sapete, SMS oppure WhatsApp per noi pari sono, scriveteci, se volete mandateci anche delle email. Due di denari, guardate che è in lettere questa volta, due di denari @radio24.it. Mia mamma dice che si è stufata di cucinarmi la peperonata, trovarmi a letto a luna passata, pagar la retta all'università. Allora, non ne riusciamo purtroppo a sentirla tutta, ma questa è la famosissima Shusi. Beh, famosissima, ti ringrazio, caffè pagato. Però diciamo che calza a pennello per l'approfondimento d'apertura che vogliamo fare questa mattina, no? Su questo caso che anche noi solleviamo ci sono stati tanti commenti, si sono sprecati. Noi ovviamente non vogliamo far mancare il nostro, che però daremo con la nostra, come dicevo prima, autorevole leggerezza. Non ci si può scherzare più di tanto in realtà, perché no. Il diritto di famiglia su questo tema è intervenuto spesso e volentieri con sentenze anche molto diverse che hanno sempre fatto discutere, Mauro. Sì, perché poi quest'anno, questo 2017, è stato caratterizzato, come sapete, da una sentenza della Corte della Cassazione che ha ad esempio rivisto i termini per l'assegno all'ex coniuge. Allora, l'hanno ribattezzata la sentenza Grilli perché naturalmente sì. Il caso parte da un autorevole ex esponente di governo. Ma invece oggi vorremmo occuparci proprio dei figli, che è un tema non trattato dalla sentenza Grilli, ma quotidianamente, verrebbe da dire, trattato dai tribunali italiani. E proprio dal tribunale di Pordenone è partita questa vicenda, che poi ha avuto eco sui giornali e, come vi ricordava Deborah, anche questa mattina qui a Radio 24. Perché che è successo? Una figlia 26enne che frequenta, diciamo, con non troppa assiduità, verrebbe da dire, l'università, nel senso che risulta essere da 7 anni iscritta a una laurea triennale, quindi questo già, diciamo, inquadra un po' la vicenda. Ha chiesto però 2.577 euro per il suo mantenimento. La cosa ha fatto scalpore, però prima di sentire il dettaglio giuridico puntuale dall'avvocato che ci aiuta oggi, che è Selene Pascasi, che saluto, è un'esperta del Sole 24 Ore. Buongiorno, esatto. Selene. Buongiorno, avvocato. Buongiorno a tutti. Allora, avvocato Pascasi, mi permetto io di fare un riassunto iniziale. La richiesta, è vero, è stata inizialmente di 2.577 euro mensili. Ma perché questa ragazza di 26 anni chiedeva al padre, che con il quale vive vive, perché esatto, i due genitori sono separati, esatto, esattamente, chiedeva tutti questi soldi perché l'importo si riferiva al mantenimento per ritornare a frequentare l'università fuori sede, e quindi c'erano dentro tutte le spese possibili e immaginabili. Bollette, naturalmente alimentarsi e tutto il resto, quindi il mantenimento complessivo. Va anche detto che però il tribunale in primo grado e poi anche in secondo grado ha ridotto la pretesa della studentessa a un più ragionevole 500 euro in primo grado e 350 in secondo grado. Questo mensili. Per dire che abbiamo letto le carte, Mauro, no? Perché naturalmente poi i giornali, e qui ci mettiamo dentro un po' tutti i giornalisti, riportano ovviamente le notizie qualche volta in maniera un po', non dico frettolosa e superficiale. Detto questo, abbiamo voluto dare proprio questo grado di dettaglio per poter poi commentare con anche, un po' più di autorevolezza. E anche ecco, per tranquillizzare diciamo coloro che magari hanno temuto di sentirsi chiedere, che so, da separare importi di questo tipo. Allora precisiamo, i giudici in realtà non hanno poi accolto questa pretesa, ma hanno dato le indicazioni diverse. Quali? Lo chiedo direttamente all'avvocato, esatto, Pascasi. Allora, avvocato, qual è il senso, buongiorno, qual è il senso delle determinazioni che hanno deciso i giudici, al di là, ripeto, della pretesa della studentessa? Sì, ecco, come lei diceva, come anticipava prima, in effetti i giudici non hanno accolto pienamente le richieste della ragazza, cioè nel senso che hanno confermato l'obbligo del padre di provvedere al mantenimento, ma del resto c'era una sentenza di divorzio tra i genitori che aveva stabilito l'obbligo del padre di provvedervi. Quindi comunque ricordiamo che nel momento in cui si vuole, tra virgolette, smettere di pagare l'assegno o si vuole puntare ad una diminuzione del mensile, bisogna sempre rivolgersi al giudice, non si può autoridurre o addirittura sospendere l'assegno così da soli, insomma non sono delle decisioni che si possono prendere personalmente. Ma detto ciò, i giudici hanno ridotto, quindi hanno confermato l'obbligo, ma hanno ridotto la cifra perché comunque un po' per bacchettare diciamo il comportamento, l'inerzia un po' della ragazza, insomma, come per lanciare un monito, per dire va bene, adesso riduciamo ai diritto al mensile, per carità, però comunque cerca anche tu di fare la tua parte, detto in termini semplici. Quindi, per la notizia che è passata su qualche giornale, il padre condannato a pagare la paghetta, a riconoscere appunto la paghetta, in realtà le cose non stanno un po' così. Il tribunale ha anche sollevato la questione dell'inerzia di questa figlia, quindi un po' ha riconosciuto anche le rivendicazioni del padre. Sì, sostanzialmente non direi che ha vinto, no, in termini gergali la figlia, cioè diciamo che comunque la figlia ha vinto, ma nel senso che l'obbligo del padre era già statuito, era già stato deciso in precedenza con la sentenza di divorzio, perché tutto qua, quindi si è discusso sulla somma più che altro. Perché, avvocato Pascasi, allora il principio di base è: qui c'è stata una sentenza di divorzio, quindi per tutti coloro che si trovano in questa situazione la sentenza ha stabilito una somma per il mantenimento dei figli e questa somma va pagata, non quello che viene stabilito una sentenza. Figli che vivono con il padre perché la mamma vive in Francia, peraltro c'è anche un'ulteriore situazione di contorno che forse vale la pena segnalare, chiusa la parentesi. In più, la regola generale è che il figlio va mantenuto finché non è autosufficiente economicamente. Dico bene, avvocato Pascasi? Questo sì, ma questo poi comunque cioè lo dice il codice civile per quanto riguarda l'articolo 147 per i doveri dei genitori uniti da matrimonio, ma lo dice comunque in genere la Costituzione, che si rivolge ovviamente sia a figli nati dal matrimonio sia figli nati fuori dal matrimonio, i cosiddetti ex figli naturali, che adesso comunque sono tutti equiparati. Quindi sì, cioè il principio base è: il figlio maggiorenne va mantenuto finché non sia autosufficiente. Ovviamente, per buonsenso, per logica, anche insomma, diciamo per non andare contro natura, possiamo dire così, no, non si può mantenere un figlio a vita, questo è chiaro. Infatti quindi, anche il papà di questa ragazza ne fa una questione, un principio educativo, non sì, si accanisce, esatto, sul tema della cifra. Le vorrei far sentire, avvocato Pascasi, cosa ha detto proprio questo signore questa mattina da Luca Telese a 24 Mattino. Non è soltanto una questione di paghetta, non è soltanto una questione di economica. La mia figlia ha fatto un corso di relazioni pubblico triennale, siamo al settimo anno quest'anno fuori corso, mi impongono di mantenerla all'università per altri 2 anni fino al 2019, non desidera studiare, non desidera impegnarsi, si trova un alibi ulteriore per portarsi adesso a 26 anni, nel 2019 avrà 28 anni, 29 anni, si troverà senza aver finito uno studio triennale, senza esperienza lavorativa, ed è giustificata questa cosa. Ecco, allora, non c'è però un limite di età, e qui richiamo in causa l'avvocato Pascasi, cioè non è che a un certo punto uno può decidere basta, tu hai X anni, hai compiuto X anni, non ti do più nulla. Lo chiedono anche gli ascoltatori, perché chiedono proprio di avere il limite anagrafico, che non esiste, avvocato. Non esiste, cioè nel senso che per assurdo lo si può mantenere anche fino a 50 anni, cioè non c'è un limite specifico. Si dice soltanto finché non è autosufficiente. Ovviamente poi il padre che insomma interessato a ottenere la revoca, quindi diciamo in termini semplici a smettere di versare l'assegno al figlio perché ritiene che comunque il figlio abbia raggiunto una certa età, quindi possa comunque darsi da fare, diciamo così, dovrà comunque andare davanti al giudice, chiedere la revoca dell'assegno, ma dovrà dimostrare che il figlio, sì, è vero, non è autosufficiente, non riesce non lavora, non ha trovato una sua collocazione, ma deve dimostrare che quell'inerzia è colpevole, cioè che è un figlio, tra virgolette, parassita che si crogiola sul mantenimento paterno, dico paterno perché comunque molto spesso è il padre. Che deve versare, certo, è così. Ecco, che deve versare e quindi deve, la prova, l'onere della prova spetta al genitore che versa l'assegno, quindi deve dimostrare ad esempio che abbia rifiutato delle proposte di lavoro, che sia fuori corso, che comunque non abbia interesse a rendersi indipendente. Tra l'altro, Mauro, no, stavo guardando anche i messaggi che stanno arrivando, no? Ovviamente ci aspettavamo prese di posizione di genitori magari direttamente interessati a questo caso perché lo stanno vivendo sulla propria pelle, ma devo dire che stanno arrivando messaggi anche da parte di ragazzi dell'età della giovane in questione. Per esempio Alessandro ci scrive: io ho 26 anni e trovo questa sentenza una vera follia, capisco mantenere il figlio ma lui si deve impegnare anche a diventare autosufficiente. Ed effettivamente anche ieri pomeriggio, mentre preparavamo la trasmissione, molti ragazzi che lavorano con noi, che più o meno hanno questa età, erano molto perplessi, diciamo così, perplessi, esatto, ed interessati a questo tema, perché siccome sono tutti molto vogliosi di guadagnarsi la loro totale autosufficienza ed indipendenza economica, a fronte di questi casi rimangono un po', sì, non dico scandalizzati, ma quasi. Ma io vorrei introdurre un dettaglio. Allora, abbiamo ricordato, l'ha già fatto l'avvocato Pascasi, non c'è un limite di età. Se il genitore ha questo obbligo di mantenimento, deriva dal codice civile e deve preoccuparsene. È anche giusto però che il figlio a un certo punto si affranchi o cerchi di farlo dalla dipendenza economica. In realtà anche nella sentenza della decisione della Corte d'Appello, che ricordiamo ha ridotto a 350 euro mensili la paghetta cosiddetta, quindi il genitore bancomat, il papà bancomat, il è stato sono state accolte le richieste, no, di questo tra l'altro, qui può essere proprio definita paghetta, perché lui la mantiene perché vive con lui, sì. Quindi questa è una cifra, diciamo, aggiuntiva rispetto al mantenimento che lui già ordinario riconosce, che garantisce per le spese ordinarie, cioè. Però avvocato Pascasi, in realtà anche nella sentenza nella decisione di secondo grado della Corte d'Appello si dice c'è una sentenza del Tribunale di Milano che si può prendere a riferimento e dice l'età ragionevole per poter mantenere un figlio è di 34 anni. Allora, abbiamo già detto, non è un termine di legge, però più o meno quella lì dovrebbe essere l'età in cui, insomma, figlio mio, figlia mia, fatti la tua vita. Adesso basta. Ma perché comunque intanto bisogna dire che questa sentenza di Milano è singolare, cioè altre sentenze che fissano ad un'età specifica, che fissano una soglia, non ci sono. Semplicemente Milano, ricordiamo comunque che i giudici decidono caso per caso, quindi non siamo in uno stato in cui una sentenza fa legge, è chiaro, quindi caso per caso può essere deciso in modo diverso. La sentenza che poi è un'ordinanza, tra l'altro, il Tribunale di Milano si fissa a 34 anni perché fa riferimento, se ben ricordo, alle statistiche nazionali ed europee, cioè allo stato di non occupazione del figlio che usualmente, ordinariamente, secondo quelli che sono gli standard nazionali ed europei, dovrebbe cessare a 34. Dopo i 34 dovrebbe essere in teoria non giustificato, e questo perché comunque Milano richiama le parole della Cassazione, che comunque sono state più volte pubblicizzate, insomma, comunque che hanno fatto un po' da spot a questa cosa, cioè dicendo che oltre una determinata età si assisterebbe ad una sorta di parassitismo di ex giovani a danno dei genitori che sono sempre più anziani, perché questo è vero, però bisogna anche, a mio parere, spezzare una lancia a favore dei giovani, nel senso che sul lavoro oggi è richiesto la specializzazione. Infatti, avvocato, qualche ascoltatore chiede, dopo che abbiamo stabilito e chiarito la questione anagrafica, a che età diventi teoricamente autosufficiente, ma c'è chi chiede anche la quantificazione dell'autosufficienza economica, come la si stabilisce anche in questo senso, avvocato? Perché la specializzazione che si richiede sul lavoro è sempre più elevata, quindi inevitabilmente aumenta l'età in cui il ragazzo riesce ad approdare al lavoro, questo è da dire, insomma. E comunque un altro particolare, appunto, con riferimento ai rilievi che mi sottoponeva lei, è proprio questo, cioè che non si può neanche, però, cioè non si può giustificare un figlio, tra virgolette, parassita, ma non si può neanche pretendere che un figlio bravo, laureato, accetti un lavoro non adeguato, certo, alla sua professionalità soltanto per rendersi indipendente. Questo no. Stavo pensando con Mauro, un po' come le pensioni che abbiamo affrontato l'altro giorno. D'altronde ogni caso fa storia a sé. Certamente, non si può ogni sentenza, ogni decisione. Ma guarda, Deborah, di queste decisioni dei giudici, ordinanze, eccetera, ce ne sono continuamente, simili, affini a questa decisione che appunto abbiamo visto dai tribunali friulani. Tra l'altro mi viene in mente, abbiamo una telefonata? Anche due. Ma allora mandiamo una telefonata. Ti viene in mente che cosa? Perché? No, mi viene in mente che i latini, quindi in tutt'altra epoca storica, dicevano che eri adolescente fino ai 30 anni, ecco. Ti chiamavano proprio così, adolescence. Io pensavo che lo fossimo oggi, visto che l'età anagrafica si sposta sempre più avanti. Era già una cosa nota agli antichi romani, guarda. Vincenzo da Formia, buongiorno. Buongiorno, complimenti a voi, alla trasmissione, a furia di sentirvi non vedo più la televisione, sto sempre attaccato alla radio. Bravo, le fa solo bene Vincenzo, grazie. Appunto, lo consiglio a tutti. Volevo dire questo, lasciando da parte tutti i tecnicismi dell'avvocato, tutto giusto che la legge stabilisca questo, quell'altro e quell'altro. Ma io dico il buon senso anche dei ragazzi, che si è un po' perduto, appunto, perché qua si parla solo di diritti, solo di doveri da parte dei genitori e di diritti da parte dei ragazzi, ma il buon senso dov'è? Ma si può vivere fino a 26 anni senza, con un padre che attesta che la figlia è una nulla facente, è fuori corso, non produce, cioè lasciando perdere tutta la parte tecnica, bisogna dimostrare di lavorare, nel dispositivo della sentenza, ma il buon senso, dare un segnale ai genitori che non si trova lavoro, che c'è tutto giusto, però almeno farsi vedere attivi, se questo padre dice che la figlia è una parassita, io ho timore che dica la verità, dica le cose giuste. Vincenzo, o no? Cosa le devo dire? Anche la sua considerazione permeata di buon senso. E anche un po' di amor proprio prima del buon senso da parte appunto del giovane, che infatti, insomma, dopo un po' un genitore si augura che i figli prendano la loro strada, c'è qualunque da dire che, essa, esatto, sia la prima sentenza del tribunale di Pordenone, se non mi ricordo male, comunque fa riferimento anche al trauma vissuto da questa ragazza per la separazione, quindi in qualche maniera questo atteggiamento è giustificato. Poi va a sapere cosa è successo all'interno di quella famiglia quando la separazione si è consumata, e magari hanno veramente sofferto giustamente queste ragazze al punto da adesso non riuscire anche a rimettersi un po' in carreggiata nella propria vita, ma speriamo che lo facciano più presto. Un diciottenne, vogliamo sentirlo? Ma volentieri. No, quando aveva 18 anni, Manuel. Quando aveva 18 anni. Adesso forse un po' più grande. Manuel. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Velocissimo, ecco, se ce la fa, grazie. Niente, io volevo dire, secondo me a 26 anni un ragazzo non può dire io voglio ancora la paghetta, perché quando un ragazzo ha 18 anni, un ragazzo si dice che è maggiorenne, ok? E che è in grado di produrre, quindi di uscire di casa, di fare quello che vuole. Allora, come un ragazzo è in grado di chiedere al papà finché non trovo lavoro, aiutami, mantienimi? Certo, il papà lo fa giustamente, però il ragazzo è anche capace di dire papà, io sono maggiorenne, faccio quello che voglio. Certo, ecco, è un po'... sicuramente questa ragazza questo l'ha fatto. Grazie, sì. Grazie Emanuele. Qui ti dico solo che al 349-238-6666 vedo arrivare messaggi dell'una e dall'altra parte, cioè giovani che ci dicono, eh sì, ma se non posso mantenermi, a questo punto resto a casa con i genitori, e altri che dicono, ma insomma siamo sempre alle prese con i bamboccioni. L'ennesimo ciusi per citare i chapter 11. Esatto. Allora, caro Mauro, sono quasi le 11.30. È il tuo momento, Deborah. È il mio momento. Devo dire che è un tema molto interessante quello che abbiamo affrontato stamattina. Abbiamo raccolto tutte le considerazioni degli ascoltatori che ci hanno convinto che più presto naturalmente ci ritorneremo chiarendo magari tutti gli aspetti necessari che stamattina abbiamo dovuto trascurare. Sicuramente. Salutiamo l'avvocato Pascasi. Grazie, avvocato Pascasi. Grazie. Salve, grazie a voi. Grazie buona a voi, giornata. E adesso un po' di borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di denari. Sì, direi che la canzone calza a pennello in sì, questo caso. Dove va il denaro? Guarda, va su queste criptovalute da qualche tempo a questa parte e quindi molti potranno legittimamente chiedersi ma effettivamente dove vanno? Perché ma che se... roba è? Per tu hai deciso di intimidirmi, mi parli di allora, finanza, intanto mi parli la colpa di... è vostra del Sole 24 Ore perché domani fate l'approfondimento. Anzi, la colpa è sua. È sua del collega che abbiamo in linea, esatto. Andrea Gennai. Buongiorno Andrea. Ciao, buongiorno a tutti. Che si è appassionato a questo argomento, per cui ne scrive diffusamente, al punto che chissà che non sia un po' responsabile anche di questa bolla che ormai sta condizionando questo mercato a livello globale. Andrea, intanto di nuovo buongiorno. State preparando con Plus 24 del Sole 24 Ore non una guida, ma un approfondimento a questo mondo che viene guardato sempre più con grande interesse non solo dagli investitori professionali e dai trader professionisti, ma anche dai piccoli risparmiatori che si avventurano sul terreno delle criptovalute, non sempre con grande consapevolezza, fanno a volte anche degli errori, perché non è, questo è un aspetto che va specificato, un mercato ancora disciplinato, regolamentato. No, allora da dove vogliamo partire? Quando parliamo di criptovaluta, di valuta virtuale, digitale, esattamente a che cosa facciamo riferimento? Allora, domani appunto come dicevi tu ci sarà veramente un approfondimento molto ampio su Plus con ben 6 pagine, quindi non lo scrivo solo io, ovviamente scrivono molti colleghi che affronteranno il tema da diversi punti di vista, dal punto di vista del mercato di cui mi occupo io specificatamente, ma anche dal punto di vista diciamo fiscale, perché queste nuove criptovalute pongono diciamo degli interrogativi anche agli stati e alle istituzioni su come reagire, come comportarsi. E sostanzialmente queste criptovalute sono diciamo delle valute appunto virtuali, nel senso digitali, anzi è più corretto parlare, che vengono create attraverso un complicato sistema informatico che ora non stiamo qui a spiegare. Però il punto che mi preme sottolineare sembra un paradosso, ma è un punto filosofico, nel senso che è giusto che tutti conoscano questo fenomeno, e domani ci saranno anche dei glossari per chi si avvicina la prima volta, quindi appunto invito a leggere proprio l'approfondimento domani, perché sarà una view completa su un anche ABC. Chi non conosce, proprio un ABC anche chi non conosce questo mondo. Ecco, mi preme sottolineare un aspetto proprio filosofico, che questo fenomeno è interessante perché diciamo così è l'esaltazione della disintermediazione, cioè questo fenomeno che vediamo tutti i giorni per cui c'è il tentativo diciamo di scavalcare le istituzioni. Le banche. Le banche soprattutto, ma non solo, banche centrali, istituzioni finanziarie ed altro. Cioè anteporre la filosofia della comunità contrapposta all'istituzione. Questo è un fenomeno interessante e può essere anche pericoloso, perché può averci anche una vena di destabilizzazione. Certo. Per questo motivo ecco, va osservato e va analizzato attentamente questo fenomeno, perché dietro un qualcosa che sembra così quasi goliardico, in realtà sotto traccia stanno nascendo dei fenomeni che poi si vedono anche nella società odierna, proprio di contrapposizione tra la logica della comunità contro la logica dell'istituzione. Sarà anche goliardico questo fenomeno, però intanto i numeri, Andrea, parlano chiaro. Io ho un dato che si riferisce al mese di agosto, mese che, nonostante tutti vadano in ferie, sembra invece essersi rivelato piuttosto profittevole per coloro che hanno deciso di puntare sulle criptovalute, perché il loro valore di mercato è salito di un'ottantina di miliardi di dollari, e quindi complessivamente oggi abbiamo anche dei dati su quanto vale complessivamente questo circuito di valute virtuali? Sì, sì, allora sostanzialmente vale intorno ai 150 miliardi di dollari, e di cui la metà fa capo al Bitcoin. Domani spiegheremo chi vuole investire nel Bitcoin e nelle altre criptovalute, come fare, quali sono le piattaforme ed altro. Il concetto, giustamente come dicevi tu, è uno: si tratta di mercati non regolamentati. Quindi sono delle piattaforme private, di società private, dove si incontra domanda ed offerta. Ovviamente non ci sono le garanzie di tutela dei depositi come ci sono per le banche, per i broker autorizzati. Certo. Quindi se fallisce una piattaforma, ahimè, esatto. È già no, perché sì, parliamo di valute virtuali, ma l'investimento è reale, nel senso che se io sottoscrivo un investimento di questo tipo con una piattaforma non regolamentata, ma con la quale comunque mi imbatto perché sono interessato a questo mercato, io il denaro devo trasferirlo realmente, Andrea. Cioè li devo comprare questi bitcoin, Andrea, giusto? Assolutamente, posso o depositare direttamente dei bitcoin oppure fare dei bonifici in valute reali, euro, yen, sterline, dollari, faccio dei bonifici a queste piattaforme, mi iscrivo online, loro mi danno un numero, tramite la mia banca faccio questo bonifico, ecco, è lì che entra il meccanismo della tutela. Faccio un bonifico a delle entità, ripeto, certo, che non sono né garantite, né riconosciute, né autorizzate dalle istituzioni. Ovviamente dal lato del Bitcoin dicono: questo è la nostra forza, è tutto basato sulla fiducia e sulla garanzia reciproca. Però non c'è un'autorità centrale, esatto, non c'è nessun, né un'autorità locale né centrale che può vigilare, intervenire, esatto, sanzionare e così via. E di conseguenza il tutto sfugge anche al fisco, caro Mauro. Ecco, questo, e questo poi so sarebbe un tema che ti preoccupa molto, so, ma che non ne puoi scrivere. Sai che io sono convinto che ci sia sempre un'imposta per te, Deborah. Però volevo chiedere, qui si è scritto, si è letto che qualcuno ci sta anche guadagnando, cioè ha acquistato queste monete virtuali per valori molto bassi e poi si è ritrovato appunto con valori molto più alti. Sì, e questo ovviamente fa gola un po' a tutti, no? Ma è rischioso? Tu lo consiglieresti come investimento, allora, Andrea? Calcola che appunto gli hedge fund si sono buttati, diciamo, alla grande in questo business. Calcola che la volatilità addirittura supera il 200% su base annualizzata. Cioè vuol dire che ci sono delle oscillazioni di prezzo assolutamente fuori controllo, cioè può fare più 30, meno 30 all'interno di una stessa giornata. Quindi è ovvio che si tratta di uno strumento adatto a persone che hanno una propensione a rischio altissima, che si sta parlando di scommessa o quasi, sì, che possono dedicare, a mio avviso, non oltre il 5% del proprio portafoglio, anzi forse è già troppo. Una persona che ha, supponiamo, 100.000 euro, faccio un esempio concreto, sì, dice: lo sai cosa c'è? Voglio scommettere 1.000 euro su questa criptovaluta. Ci sono diverse modalità, cioè c'è anche la modalità proprio di scommettere su questo, su Bitcoin, sulle altre, senza comprarli direttamente. E c'è anche un ETF, il primo, un che fondo, è stato quotato, quindi, sì. Sì, che è stato quotato a ora Stoccolma. Non è proprio un ETF, sì, domani spiegherò come funziona. Però la cosa curiosa è che negli Stati Uniti la SEC aveva bocciato questo ETF, e invece stranamente le autorità svedesi lo hanno autorizzato, quindi non sappiamo bene su quali meccanismi. Io ho cercato di leggermi il prospetto, però è in svedese, ahimè, non conosco. Non sei ancora abbastanza ferrato con lo svedese. No. Cioè, no, già dopo il Bitcoin, esatto, mi sono fermato di fronte al prospetto in svedese. Quindi comunque, insomma, c'è un broker italiano di cui parleremo domani, che consente anche ai clienti italiani di versare, ovviamente broker autorizzato, certo, con tutto garantito, sì, protetto. Tu fai questa scommessa con questo strumento, che appunto nell'ultimo mese e mezzo è raddoppiato. Quindi mi spiegavano da questa società che c'è grande appeal, grande interesse, ecco, molte persone si stanno buttando proprio in termini di speculazione. Quindi di parliamo anche con i termini giusti, si tratta tra virgolette di investimenti, tu li definisci esattamente come sono delle scommesse, per cui come tali vanno trattate, si può vincere o perdere, via di mezzo non ci sono. No, io non voglio, come dire, cioè, sono molto aperto a tutte le innovazioni, figuriamoci. Se però ragiono in termini di procedure istituzionali, procedure garantite, tutela dei risparmiatori, ecco, allora ancora qua siamo un po' lontani dai capisaldi, ecco, del risparmio. Perché lì non c'è. Lì non c'è la MiFID 2, no, caro Andrea, di cui parlavamo. C'è un altro rischio però molto importante, che è quello dell'intervento degli stati, e questo è il secondo rischio. Cioè, siccome alcuni stati si stanno preoccupando seriamente di questo fenomeno, la Cina in primis è stata la prima che è intervenuta, perché il Bitcoin veniva utilizzato, diciamo così, per portare capitali fuori dal paese in maniera illecita. E ecco, gli stati prima o poi dovranno porre un argine a questo fenomeno, e questo è il vero rischio. Una mattina, non so, uno Stato potrebbe alzarsi e mettere il Bitcoin fuori legge. Certo. Questo potrebbe accadere. Di conseguenza anche tutti gli altri paesi dovranno prenderne atto. Andrea, fermati lì un secondo, perché due cose. C'è Luciano da Vicenza, che sentiamo a questo punto dopo il nostro prossimo appuntamento, prima di andare all'ultimo approfondimento di oggi e a C'è Imposta per te. E però adesso dobbiamo assolvere i nostri impegni istituzionali, Mauro. È vero. Signore e signori, traffico! 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre, a Genova. Vi presenta... Due di denari. Una monetina a te, una te, una monetina pure a te, così fanno tre. È la mia canzone preferita delle nostre colonne sonore di Due di denari. Pensavo e speravo fossero i Chapter 11. Ma quello lo do per consolidato e scontato. Diciamo, oltre alla discografia prodotta dai Chapter 11, c'è anche Silvestri con le monetine. Allora, accompagnato e introdotto da Silvestri, ecco, vogliamo sentire Luciano da Vicenza. No, però stavo pensando che se uno vuole comprare i Bitcoin non sente questo rumore che c'è tanto familiare delle monetine, purtroppo. Luciano, benvenuto. Sì, pronto, buongiorno a voi. Buongiorno. Senta, le volevo dire una cosa, che questi ultimi tempi così, che si parla un po' di più di questi Bitcoin, ma io ho 84 anni, quindi ho una vissuta, un po' di esperienza, Luciano. Ho un vissuto di finanza. Ogni tanto intervisto o degli amici o così con una parola. Può andare parola, subito alla domanda, Luciano, perché stiamo chiudendo, grazie. Sì, va bene, chiedo a loro se sanno che cosa sono, ma gente di alta rispettabilità economica e finanziaria non ne sa niente. No, non sanno niente, però la mia domanda è una curiosità, perché io seguo questa cosa da tempo. Vorrei capire chi è stato o chi sono stati, perché devono essere stati in due, che si sono scambiati. Chi ha scambiato il primo Bitcoin? Grazie Luciano. Grazie Luciano. Allora, Andrea Gennai, leggevo un'intervista al premio Nobel per l'economia Robert Shiller, professore di economia a Yale, che diceva che quello dei Bitcoin attualmente è il miglior esempio di bolla, ma soprattutto dice: l'alone di mistero che circonda la valuta digitale contribuisce al suo successo, perché l'inventore non è mai stato identificato. È così? Sì, nel senso che il Bitcoin nasce ufficialmente alla fine del 2008. Non è un caso, nasce pochi mesi dopo il crack di Lehman. E quindi, diciamo, da lì viene, diciamo, definito questo protocollo da questo personaggio che ha questo pseudonimo giapponese, che rimane un po' con questo alone di mistero. Secondo alcuni è stato identificato, secondo altri meno. Ma diciamo, questo è il meno. Questo protocollo, diciamo così, viene creato e viene lanciato, e da quel momento lì diciamo parte il Bitcoin. Oggi vale circa $5,000. I primi scambi, e fino a pochi anni fa, 2010-2011 se non erro, veniva scambiato a 1, 2, 3, $10. Ecco, quindi immaginate la progressione che c'è stata di questo strumento. Persone che all'epoca avevano $10 in Bitcoin oggi sono milionari. Quindi, insomma, sono fenomeni assolutamente, come dire, intanto di dimensioni rilevanti, cominciano ad avere dimensioni rilevanti. E soprattutto, ecco, c'è un altro aspetto importante. I grandi sostenitori del Bitcoin dicono: bene, noi non siamo regolati, però voi che siete regolati, che vivete in un mondo regolato, comunque ci sono state crisi, ci sono state persone che hanno perso soldi. Ecco, la miglior risposta, diciamo, contro i mercati non regolamentati è, diciamo così, dare il massimo esempio di trasparenza e rispettabilità da parte delle istituzioni, e questo non sempre è avvenuto. Allora, rimandiamo tutte le curiosità su questo mondo all'inserto che esce domani, allo speciale che esce domani con Plus 24 del Sole 24 Ore dedicato alle criptovalute. Ci aggiungo l'osservazione che condivido di Roberto da Bergamo, perché dice: l'importante è che chi investe e perde poi non venga a rompere le scatole, dice un'altra cosa, alla collettività, perché ha ragione Roberto. Tutti gli ultimi casi di risparmio tradito, che naturalmente hanno a che fare con il mondo bancario tradizionale, sono stati poi protetti da provvedimenti dello Stato che hanno garantito, anche se non sempre in maniera totalmente soddisfacente, indennizzi e risarcimenti. In questo caso parliamo di un mondo su cui investire, puntare e scommettere, non regolamentato, non disciplinato, sul quale le autorità non hanno ancora nessuna voce in capitolo, per cui pensateci un miliardo di volte prima di chi comprare Bitcoin. Chi lo fa sappia che lo sta facendo a proprio rischio. Esattamente, e poi nessuno interviene con un provvedimento per tutelarvi se vi ritenete truffati. Grazie ad Andrea Gennai, l'ultima rubrica di oggi. C'è imposta per te. Caro Mauro, sono Deborah da Milano, ho un buono pasto, che cosa ci devo fare da domani? Deborah, come prima cosa devi leggere quotidianamente, scrupolosamente. Religiosamente no? Anche religiosamente. Mi raccolgo in preghiera allora. Il Sole 24 Ore, perché già oggi noi ti abbiamo avvisato a pagina 4 di tutto quello che cambia da domani per i buoni pasto. Oh. E allora, siccome in questa mia rubrica ho l'ambizione di volerti spiegare, cara Deborah. Un parroco anche racchiuso nel confessionale, guarda. Quando parlo di queste cose un pochino mi emoziono, quando parlo di tasse mi emoziono. Allora, uscendo un po' dal personaggio, esatto. Da domani cambiano le regole per i buoni pasto. E perché ne parliamo qui a C'è imposta per te? Per ricordarvelo, leggete il Sole 24 Ore di oggi, leggete anche sul sito del Sole 24 Ore, abbiamo delle indicazioni. Che cosa succede da domani? C'è un tetto di utilizzo di 8 buoni pasto per ciascuno, quindi tutto il pacchetto che l'azienda mi ha dato il mese scorso, perché avevo lavorato di sabato e di domenica e mi riconosce appunto questi buoni, mentre prima spendere, non potevo usarli tutti insieme e avresti dovuto usarli uno alla volta. In realtà sappiamo che nella prassi c'è molta più tolleranza. Da domani hai 8 buoni pasto, hai un pacchetto di 8. Allora attenzione, perché poi le cose non sono mai semplicissime, e infatti questo è il motivo per cui l'abbiamo inserito nella nostra rubrica per te. Che cosa cambia in meglio? Che possiamo spenderli in più posti, ad esempio anche negli agriturismi, c'è una sorta di liberalizzazione nell'utilizzo. Però i buoni pasto in circolazione sono di due tipi, cara Deborah. L'uno cartaceo vale 5,29 euro. E l'altro invece, se è elettronico, se l'azienda te lo dà in elettronico, lo posso comprare col Bitcoin, vale, quello lì. Lascia non fare confusione, che già ne facciamo abbastanza. E l'altro invece, dicevo, vale 7 euro. Allora, se tu hai un tetto di 8 buoni pasto, capisci che la differenza nel capacità d'acquisto dei due buoni è diversa. Cioè. Allora, tra l'altro, questo supera, e lo dico a beneficio un po' dei professionisti in ascolto, il decreto del 2010 che era molto più stringente. Invece il decreto che entra in vigore domani è decisamente più aperturista. Esatto. Aperturista, sì, è un termine che non è, credo di aver inventato sul momento. Non seduta so, stante. Mettiamolo insieme ad autorevole leggerezza, facciamo un pacchetto e mandiamo tutto all'Accademia della Crusca. Però ti voglio dire, attenzione, perché c'è sempre un'imposta per te, cara Deborah. E in questo caso l'imposta è l'IVA. L'IVA, sai che ti guarda. Sì, ieri già mi hai messo sull'attenti e io sto lì allora, che aspetto il postino. Perché l'Unione Europea in realtà vorrebbe superare l'IVA sui buoni pasto, ma come apprendi oggi dal contributo di Stefano Sirocchi sul Sole 24 Ore, per adesso c'è ancora. Nel 2018, alla fine del 2018, dovrebbero arrivare le nuove norme che solleveranno dal 4% IVA i buoni pasto. Ma il buoni era pasto... stato tutto il tema che aveva in qualche maniera portato sulla strada della contestazione anche gli esercenti, no? Che si vedevano pagati la spesa, per esempio, con i buoni pasto, non sempre li accettavano di buon grado per questo motivo, perché avevano una vessazione fiscale un po' ci sono esattamente ci sono il mondo dei buoni pasto è un mondo meraviglioso, e io adesso ti ho dato solo questo assaggio per incuriosirti, ma bene, tu continua a seguirci, e sai cosa, ti consiglio anche di ascoltare Due di Denari su Radio 24. Molto bene, allora io intanto ricordo invece, prima di salutare gli ascoltatori, che a proposito di pasto e alimentazione, Nicoletta Carbone vi aspetta domenica alle 12 con la bufala in tavola, dove con i suoi esperti andrà a caccia di bufale e credenze metropolitane che riguardano proprio il cibo. In attesa di domenica potete seguirla oggi in diretta a Facebook e subito dopo Obiettivo Salute delle 12. In questo caso si chiude la settimana in bellezza parlando di pelle e capelli. Di buoni pasto noi riparleremo a Due di Denari, perché interessa tanti ascoltatori. E allora per adesso non ci resta che augurare una serena domenica. Abbiamo chiuso domenica. La prima settimana di convivenza insieme e non ci siamo menati, ma guarda un po' che bella notizia. È fantastico, notizia. Adesso prepariamoci però per la prossima. Ne andiamo a dare due di Santa Ragione a Filippo Aureggi, va, grazie, buon weekend a tutti, a presto.